grazie, dai, io stavo provando il paraschino. Siccome ieri non riuscivo, ho portato dato le nuove del microfono. Aspetta a farmi la doccia. Non c'ero io, era la visita del Luke via San Farino. Sono rientrato adesso e mi sta facendo l'aria azzurra. Sì, allora, ci sentiamo dopo, grazie. Ehi, yeah. Bello bene, finito hai. Sto girando i motori. Tutta ce l'hai fatta. È bello, il picchia. Ciao Mari, vieni. Tutto. E basta, ti sento però, eh. Ah, forse sei lontano, eh. Se non hai finito, dai, fai qua. Ciao Mari, e ci facendo, c'è? Ah, tu sei lui. E ci facendo? Guardando la TV, che cosa vuoi fare? Guardando la TV. E così via. Ti ho sentito poc'anzi, sul 10. Sì, stavo facendo una prova, siccome non usciva di radio molte volte, allora ho tagliato il cavo, tutto il pezzo che va dentro il microfono, gli ho rifatto tutte le saldature, sei fili. Siccome stamattina ha due posizioni, no? Ho sbagliato la posizione, era a posto, l'ho piazzo, schiacciavo portante e mi cambiava canale, il tubo che è strano. Cata, lo guardo nella foto, no! Ho sbagliato posizione dei fili, allora l'ho dovuto risaldare un'altra volta e rimetterli a posto. Comunque sei a posto, dai. Ma è casa tua? E a casa l'ho fatta la prova, allora. A casa non strappa, nulla, zero, a posto. Qua dice che è a posto lo stesso, buh. E adesso sta uscendo bene, per cui sei tranquilla. Ehi, ehi, andava. Grazie, mi sto facendo l'aerosol, 3 ore per prendersi l'aerosol. Cazzo, se la prendi un litro di effetto. No, sai cosa fatti? Mi dà un'ampulla di leva da un rubinetto e si riempie l'ampolla e si fa l'aerosol con leva al rubinetto. Ah! E poi ci vuole buoni gusti un bel. Un attimo, la suonata. Vero è, bella bella, vero è. Mica sono qua, mi bello bene. Bella bene. E cosa stai facendo? Sto mangiando 2 funzi. No, no, mi stavo facendo l'aria solo che sono venuto tardi dalla visita. E avanti, ho venuto l'aria solo. E ha detto tutto ok, già va bene. A domani mi devo fare i bibilistri, ma poi tu le gocce fa dilatarmi l'occhi, vivi di adocchi, riflu. E vabbè, gli occhiali devi usare. Gli occhiali ce li ho da quando mi hanno operato, per vedere lontano, per vedere vicino, e per quando c'è troppa luce devo usare gli occhiali scuri. Dall'età di 23 anni ce li ho. Oh, ecco. Mi avevano operato le cataratte in Galitalia, al Policlinico Sassarese. Dottor Piccinini, un anno balloce e un anno ballato, di Naredi mi ha mangiato allo studio suo i controlli, a biglietti di 120.000 lire, 100.000 lire. Sì, addirittura. Perché dice che il laboratorio del Policlinico lì era troppo intasato e visita non ne faceva. Allora le faceva nello studio suo in Viale Italia stesso, più avanti. E però chi vi deve pagare? Eh beh certo, se non c'è il reddito non le paghi. Io l'ho fatta la visita senza qualcosa, non ne ho pagato. Invece Marina l'ha fatta, ha pagato 22 euro mi sa, 21, quasi 22. No, ma lo studio suo devi pagare per cosa? Se tu fai la mutua, non pago niente alla mutua. Però allo studio suo dovevi pagare, io ero obbligato per forza andare allo studio suo perché mi faceva il laser. Ehi, ma Gio Maria c'era? ci abbiamo bussato la porta. L'ho messa a posto adesso, la macchinetta, mi ho lavato i tuci, sta cosa io mi rabbigliola, dove le cose, con le bagaglia, l'asciutta e gli ho rimesso sui papi di simbolato, dice a casa e paletta mi si rampa da un terrazzo. Chi è che sta voce da tra tra tra? Patuzza, cazzo, cazzo, se tu stai in bagno, tu azzurra, ecco, ma sei chi intendi così? Ma non è che c'è la chierucca, Luca, ma così mi ha sentito tu un po' caldo. No, io no. Patuzza, evidentemente, va bene, i cacchi, poi in vicolo va lì i rareci, intendi così a tratti. E che intendi a tratti? Ah, ieri la posizione flea, ecco, ma se non mi intendi bene. Sì, attenditi, la tua, io ti sentivo bene già. Magari tu mi sentivi male perché ce l'ho preso ed era tappato il microfono della radio, capi? Ah, il 27 sai se? No! Ah, qua, strano. Ma senz'altro ieri la posizione magari che l'ho presa, va bene, però io dovrei arrivarti benissimo adesso, Ma qua mi arrivi bene, anche poco fa mi arrivavi bene. Va bene, li prendi tu. 2 minuti, prende pure un attimo. Cos'è? 2 minuti e riprende, sta mangiando il biscottino o le patatine. Grazie, dai, vai, vai, vai. Già siamo qua. Eia, è adesso a riprendere noi, capito miei? E chi tu lo sentisci? Il lupo mannaro. No, c'è l'attore, poc'anzi, 27. E adesso ha chiuso perché è andata a prendere la 50. Dopo si fa sentire, ma il 27 però. Anche il PMR, musicatura. Ma non è che devi stare sempre al PMR, no? Grazie, ma tu sei buttato allora col PMR, mi accendere anche l'altro ogni tanto. L'altro una volta una, volta l'altro. Ma oggi ci sono i temporali, i fulmini. Temporale, ma io sono tranquillo, qua stazionari non ce ne sono, sono perfetto, per cui è sempre acceso, anche se c'è la petrolio, è sempre acceso. Oh, ha fatto una carica di fulmini azzurra, no, che ha numero per il radio zone, si ha illuminato tutto il terrazzo. Per forza, perché c'è la Pisa per la calamita ivi, ha sorvegliato, capito? Ma io la calamita non avevo lui, qua è tutto libero. Non lo so, però, io ho già pensato pure subito a vedere cosa era, e mi ha pizzicato un fulmine in volo, mi ha pizzicato, subito sono confuggito. Era male, si è pizzicato, la buccia di Zerberi. E allora? Magari Luca si è pure asciugato. Oh, non si asciuga così tanto facilmente, no? Vedi, fai sull'anno di noi, bisogna che la petrola vera, ma chi sei no che però? Ma sei lontano, manco, ma non fate qua. Era su tutto acceso. Dai, che fare, che si brucia, che se la fuggi. Me ne ho preso un altro. E allora? E chi tu lo sei più inteso, tu l'accusa che è diventato un imbianchino di cubicature, oramai è andato di rotto proprio, prima si fa zia niente. Boh, deve essere, in torneo deve essere, non l'ho sentito, no, deve essere in torneo, e lui se lo può permettere. Ora Pugliese la posa ai ferricorsi, se ti sento col malachino ti ci butto dal finestrino. Davvero? Te la sei terrazzo a Rossetti, la sì. Tu chi sei, va? Sotto l'ombrellone. O se no, probabile puro che si lascia tutto 30 sopraggeri tipo bomba. E l'ha già sarrato dentro. Sì, deve essere così allora. Però ogni tanto l'apri, mica può pensare se si romagna. E allora, a chi l'ha fatto il passante chi mi ha giusto un pelo, il bisuendi? Però mette il tenno chi non vesce questo zeppo all'orto portanico. Mentre che invece di terrazzo esci. Capito a me, almeno a me. E cosa? È l'orto bottale, il cavallo si può passare, vivo la canoa, vivo. No, no, non fate. Ha visto pure le carpe galleggenti, curangita. E mi ti fai si fare assi fino a metà la goccia. E allora un pipaio sono qua le vendi, carpe e anghita. Ehi, vediamo un po' se c'è Marchisio deve essere qua a fare acqua messa, gatta, in campagna, con te di cavafiori. Sotto la voglia di barbabietola, vita coltivata. Ma è coso, è Vittorio, hai sentito? Così due. Secondo me le finiranno di qui strada e le hanno piccato i ricci. Oh, se questa di Milani. Sa, cazzo, se io ci devo andare in giro, speriamo di no. Cazzo, se pare che un aggeggio così, deve andare in giro, farsi vedere, e mi lascia attento a queste cose. Magari finiranno pure dalle salesiani. Fatti strano, ne ha rimane di oggi. Sino che si sente male, c'è un'influenza. Oh, può darsi, no, ieri non l'ho sentito, a parte ieri sì. Ehi, a parte ieri l'ho sentito anch'io, ma ieri oggi no. Speriamo non sia niente di niente. Speriamo. Per carità, Marchisio! Luca, due minuti sono passati, ma ti sei bussato a Sina o cosa sei venni? Ma te lo mangiare, ti devi mangiare, Guido, dai, ti devi riposare. Chi all'attendi, Ma dici due minuti, ne sono passati 20 di minuti. Ma piano piano, si riposta piano piano, capito? Basta un riforzare che all'attendi e deve allattare, saluti. Eia, vediamo se ci risponde Luca Flipper. Luca, ci sei? No, che si affende l'impianto di riscaldamento a tutte le camere, si affende, gatta. Ancora non ha finito, è sempre da farà due. Grande lavoro in casa sua sta facendo. Capita, allora aveva un cantiere a bici e lo difende i tracci per pulire i tubi interni e piazzare i gambari. Non so come te fede, comunque fede che sul travaglio fede. Si sarà riscaldato tutte le camere, capito? Per cui è da farado. Capito mi hai? Se la casa la sua non lo so se è grande, la mia già è minore, non ve ne bisogno, ma vi sono tre camere appena in occhi, la sua non lo so quante camere c'ha. Vi sono tre camere, ma te mi pare che sono tre camere, mi pare, Allora c'è la cameretta, c'è il salone e c'è la camera da letto. E l'abito, la sala c'è. E tre camere in bar già è di un buro, tre o quattro camere in bar c'è Andrè. E vabbè, io vado, ma si apre l'ingresso con un salone, la camera da letto, la cameretta e la cucina. E la cucina, vabbè, impara la cucina, va, e il bagno. Ma tu in sala non ce l'hai la porta, tu c'hai l'arco senza porta, c'hai lì, così che il calore entra dalla stufa lì, no, in sala, perché porta non ce n'è. La giubata a porta, l'ha giubata italiana fea, che vida. tutti. Poi l'ingresso lì era buioso perché c'era la veletta della porta a due metri e 30 era. E vela buccia, allora la più facile è giù l'arco ed è più luminoso l'ingresso. No, in questa camera già entra, ma entra poco in questa cameretta, da me, anche se sull'adito, ma sembra così, ma è messo la posizione che non entra tanto il calore qua, però poco buono, sì, in caso mi fa freddo, ma devo fare un certo minore da elettrico, che ogni tanto mi raccendo, a chi è Giuseppe Fredda Pini? Oh, in cucina è peccato, ma che per il tubo della stufa, in tutto l'ambito, già peccato, si aprono i ricameri, che allora bisogna sedere la ghisa mentre arrugati i ricameri, se no non entrano, in 2-3 ore non entrano. Perché tu in quella cameretta, sopra la porta, nella veletta del muro, lì tu li devi fare il coso rettangolare, vendono quelle grattine, quelle rettine vendono in plastica bianca, che sono tutte con i forellini, sono disegnati, no? Se tu gli fai quel buco lì e ci piazzi quella, una dentro e una fuori, l'aria calda che sale nel corridoio entra anche dentro le camere, capito? Il calore, perché il calore tende a salire, no? Se tu gli fai quel foro sopra la porta. Ehi, ma non li può sempre altri, non lo mi piace, ma anzi, mi lasci facile un tubo della stufa che sull'angelo di dritto, si può immaginare a fare un travaglio del genere, noi. No, ma tanti, io in sala la sera, nemmeno la mattina, è raro, si entra solo per pulire e basta. Certo, ma presente, sono stancati i gameri. Le camere sono chiuse, sarà la sala che è camera da letto, sono tutti da cadichi. E la bestia che c'è della cameretta, è già poco poco già il treno, il calore, capito? Oh, se non vuoi fare la veletta e un muro, lo puoi fare nelle porte, queste grate, e in bacio alla Ianna, no? Gli fai l'incasso e copri quelle rettine e ce le incassi, sono rettangolari giù. E l'aria abbassa gli vidrento e arrivi in cameretta, quando la gianna è abbassata. Cosa non posso entrare da ora? No, non vi so che treni dritto, vedo qualche volta più a che cosa, ma raramente entriamo, sia in sala, anche noi per di solito, o in cucina o in questa cameretta. Beh, magari lo mangiano, con gli ami sono tutti a bici, è tutto aperto qua. Però da poi la sera quando accendo la stufa, che ci sia nella camera, il salone, camera da letto, che sarà danco. Mi danco tutti e due, così che là dentro è tutto a mesto e questa cameretta già entra poco poco, come entra in cucina, capito? No, io che entra dappertutto, l'ugarone della stufa, che è posizionata in modo che vada verso le camere, verso la cucina, in camera da letto e in salone. Già ci pagli l'ugarone, capito? Il calore anda, il calore, poi la soffattua anche più grande, riscalda anche di più, la mia è minore, non è grande la stufa come la tua, capito? Davvero, per cui vabbè, magari cazzo, mette il quadrigio a te. L'appartamento, la casa, quelle sono 67 metri quadri sono. Ma è messa in una posizione che che il calore va bene dove ha messo la stufa tua, va bene, mentre dove le camere mie sono fatte diversamente, per cui cazzo, poi mi sono male le camere mie. Io ho due camere, la sala e il cameretto sono due camere grandi, ma grandi però. Beh sì, la cameretta è minore. Minore. Allora, a te, 5 metri. Vabbè, la camera, chi se usa l'orettoio già in mano, già l'ha giudito. La camera da letto già in mano, già lo so, la cameretta è più minore. Però secondo me hai sbagliato occupare la stufa giù. Ma non lo potevo fare diversamente, perché io la mia la potevo mettere dall'altra parte, di fronte, ma lì di fronte, se io avrei messo la stufa di fronte in quel pezzo, però c'è un armadio io, c'è un armadio lì, così che l'ho dovuto mettere proprio sul corridoio in mezzo ai piedi, capito? Invece se io l'avrei potuta mettere dove c'è l'armadio sull'adito, allora avrei fatto entrare anche sia il calore in sala sia il calore in camera, capito? Con due anche fatta pa, cioè i buchi no, laterali, per cui l'avrei potuto incanalare, sarebbe stata anche le due camere riscaldate, capito? E tu il corridoio e gli vieni la stufa, gli vi darei giù per la camera da letto, voi. Allora, siccome sono troppo zispri, se io apro le porte il calore non entra, perché gli spifari mi buttano fuori l'aria calda, capito? Perché sono un bel grande le camere, capito? Sembra così, ma gli spifferi ci sono, no. Però se io le apro e l'accendo da presso, dalle due e mezzo, allora il calore entra anche lì, capito? Ma io siccome l'accendo alle 5, sono, capito? Sono dalle 5 fino alle 10 e mezzo l'accendo la stufa, sicché quelle due porte sono chiuse, in alto lo centro, che noi facciamo l'adito, il bagno o in cameretta, capito? In cucina. No, e allora io l'accendo a mezz'ora oggi la cassetta. No, e non che è freddo, beh. No, e allora, quando è un po' di freddo la accendo a mezz'ora. Poi si fa di che non so freddi, allora la accendo verso le 4, se no la accendo a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, la 1. Però se è una bella giornata la accendo verso le 4, così a chi si comincia a fare l'urintori. E poi oggi c'è un freddo gigo, per carità. E per i nevi? E per i nevi, non che scioccia la neve, ma è per i nevi. In altura deve essere un bel di nevi oggi. E un bel di nevi, vea, che l'ha visto su internet. Beh, tutta la Sardegna un bel di nevi, ma un bel, ma pure non che vicini, umi. Tutta la zona di Noghi, circondaria, è tutto nevi. E la preso con tu, sei stato da via Zamparino, e le robe da saccarrato. E anche a posto 800 metri. 800 metri, ma certo, a uso senz'altro è. E magari basta non vi sia pure il rubino senz'altro, io mi rilascio, mi deve essere senz'altro la neve. Ehi, ha fatto vedere su internet riprese di qua nel circondario di Sassari, in alto, c'è un bel di neve, anche in campagna stamattina, mia cognata mi ha detto che era tutto bianco, quando era allenato a travagliare. Tranquillo. Ah, già va a posto la neve, da arrivare, burro, caccia, e poi, caccia, già si vede, dai. Io non che la farete pure le viscioce, c'è sera, si può immaginare. Ah. E va in neve, come si chiede, si può immaginare. a Usilo, cazzo, io se la canzone di me a Usilo, capito? Ah, ma io a Villanova senza altro, beh, a coso, a Istri, beh, che ci sono i suoi nastri, per cui la devi, beh. Beh, già lo grido. E ha fatto vedere anche paesi qua nel circondario, tutti imbiancato. Oh, adesso non me li ricordo che paese era. Oh, su internet l'ha giusto. Tutto levi. E poi anche al televisore, al telegiornale, il tempo. L'ha fatto vedere. E io la faccio vedere pure alle due, alle tre, là. Anzi no, alle due. Capito, la faccio vedere anche alle due, che vanno di là. È tutto levi, tutto levi. Dai, a macca di macchia da voi fa di no che muro. Ehi, a Luca di mandare macchia. Si è preparato, so che si fa l'attrezzo, se casomai ci prestiamo noi l'attrezzo. A che noi l'abbiamo, abbiamo il giambo, noi faremo. Se è dovevo andare, ci prestiamo. Ehi, a te vi vuoi a palici, lui dà un risotto a misura, ma a te vi vuoi. Ehi, vediamo un po' là, vediamo un po'. Marchisio, Marchisio si sente. Ettore andò a pigliare la moglie, a cura fino a sette, lo chiama i 27 a vedere un po'. Ettore! Luca, dormito ti sei! C'era uno il 27, ma riposi, però non si comprendia se era uomo o se era femmina. E che non si sa? Chissà che era il buo? Torna la chiama. Aspetta. Non mi riposo, vada. Non ti riposo? No, è della sera qualcuno che non ha gana. Ehi, basta la gallosa di Flacchi, la 26. Non per nessuno. Tutti dormiti sono. E a che ti mi vedo freddo? E allora? Ma sono tutti la cucciuccia di 30. Luca, la passa fuori, magnata di là, aiù. Ma cosa passa fuori? Se vuoi da un bello, ma... Ma se la fermo comunque, dai, mi sta chiesa al posto, dai. E te, tattelo via gatta. Ma non metti il viaggio, tu? Ma ogni tanto, mica la mangio spesso, sì che mi piace. A meno male, non riesce a... Non mi si fa, non riesce a mangiare la gatta, boh. Fai tre caduca, tra la bassa forno e la bissa, però la bissa ogni tanto già la mangiavo lo mattessi, però la bassa forno no, no. Oh, da prima la mangiavo, forse anche ne si mangiava troppo, ma è stufato, e la mano si fa, ma come dire a voglio? Sì, vabbè, quindi c'è la bassa. Ecco la bissa, sarà una settimana, forse di più, che non sto mangiando. L'ho presa, però non ne ho mangiato. La bassa frolla. No, niente bassa frolla. Rimane aggiubato, ministra all'incisa. Buona rita, ministra all'incisa. Con carote passate. Buona rita. No, ribiate la bassa frolla, allora, Graziano. Ti piace i gambaroni, agnoni, capito? Quella lì, tu, pizzino, un buchito, la grossa, che da croccante, croccante. Chiamamolo scemo. E allora, me, vabbè, anche gli scampi mi piacciono. Se mi rimbucciano, mi rimagno. Ma il tempo di frigioni, mio, grazie. Ma il tempo di frigioni. E tutto dolce, no, che animali mi ha mangiato una vetta di pandoro, va giù una cazzola di datteri, e panettone, è pieno di dolce, mi sono pure i baschi, e non ho mangiato pasta oggi. Ah, zio Marì, si date via da loro passato, mi. E allora, di là tutti, oggi non ho mangiato frutti, ma con ieri, a fatti ieri sì. E i caramelli, cioccolati, e non mangia i frigori. Caramelle e cioccolati già ne ho. No, e i frigori del piatto. Il torrone, ciò. Buono, è di quello morbido lui. Ah, ma li metti la filaia a masticare? No, è morbido questo, non è turso. Vieni, cioè tu non ne mangi i menù, tu non mangi il dolce, tu non mangi il mondo. No, io che ci vuoi mangiare. Io posso associare dura. Associare i piatti. Bicho dai, ma dove si c'ha questi piatti? Capito? E invece il piatto a te si c'ha. Su c'ha, su c'ha. Dopo quando rimane la nocciolina la pesto con il pesto che c'ho qua e me la mangio. Mi compro e valuto gratuitamente un gestistica militare, prima e seconda guerra mondiale. Vabbè, se ti interessa, nei cappelli dei tedeschi, i caschi ci sono, tedeschi, giapponesi, americani, di tutti i tipi, vinne. E chi sarebbe a te? Compro e valuto. No, te li comprami lui. Oggettistica militare prima, seconda guerra mondiale. Compra là. A te ti piacciono queste cose, no? Te li compra questo, lui te li compra. Hai capito? Lui, se tu ne hai, vai da lui e te li compra e ti dà teresina. Così è. Ehi, mi, ci sono il metti tedeschi, normali e quelli delle SS. Poi berretti di capitano generale con tutti gli stemmi. Poi del motocarrista viene pure un cinese di elmetto, americani due. No, questa roba SS non la bruciamo, se la becco la bruciamo subito, immediatamente muri, e dopo sarà appena in mare muro. Mi è un elmetto tedesco tutto bucato, quello è bucato dalle cacciucci, mi. Roba vecchia, sei roba della presa allora, della seconda guerra mondiale, sta roba così. E chi si sa della matticirrazza, a comprare tutta questa cosa? Chi si dà la matessa idea della matticirrazza, capito? Chi si vuole morsi? Si chiama Domingo Milita, esci. Compra e valuta, te la compra e te la valuta, amico. Ah, e no, chi vende, valuta e compra, vendi buro. Boh, no, hai te la grazia. Sempre commercianti, Beh, ci sono anche le medaglie della prima guerra mondiale e della seconda guerra mondiale, capelli russi, cinturi, fotografie, bisogno di gente che busca in guerra, poi porta munizioni, chi di cacciette di ferro. E vedi, i militari per la seconda guerra mondiale, uniformi, berretti, pezzi, elmetti. Ti interessa, mitra, fucili, me. Mi si finì là, mi so. Mazzetti da un chilo a 100 euro un chilo, mi ripino un po' di chili. No, beh, un coso, beh, come si diciamo, un bazooka. Non mi si finirai, mamma, non ci fanno in guerra. Oh, posizione del venditore e del compratore, nuoro. Chi sei cacca pastore, chi vi la via tutta ammacciata in montagna, mi la roba. Da poco non l'hai visto al telegiornale. Cosa? Chi tu va via, lo so che Gantal mi va via della seconda guerra mondiale. Uccidi, pistole. L'ha fatto vedere il televisore. Raffiati. A me già piaceva una pistola, già l'avrei voluta. Bella, piccolina, non molto grande. Oh, tutte armi funzionanti, mi pulgera nei bici, tutte funzionanti, mi hai tutti sequestrati, granate pure c'avevo, tutta roba funzionante. Che ha detto? Sì, l'hanno denunciato per l'hanno sequestrato tutto, ma è compreso. Vabbè. Cos'è la piccola grazia? Davvero tutto denunciato, tutto in regola. Mi ce n'era una l'altro giorno, nuova, seconda mano. Vendendola a una guardia giurata. Si fa il porto d'arma sportivo. Ebbene, Giorni Mari! Vabbè, lì è un casino fare porto d'arma. Cosa fa? Una besteria, Mari, cosa? Ma e invece già il brillo, quando vai di là, andiamo di là segno e ci richiami. Però anche in campagna, quando vai in campagna, basta che rimani dentro la campagna lì, che non ti vecchia nessuno e t'affenti. Vabbè, voi non vedi là ai gusti, o no? Aspetta, dici, da Lucasale, da Cucciugura, la femmina di un figliolo, con la pola, che c'è questa roba da ripetere, crasciata, e la sacciolata sul paraggio. E lui sto andando di macchina. Cosa? Cosa lui? Ho detto che mi sto parlando di Max, quelli che le stavano per loro. Mi, una pistola pure, mi qua, su internet, qua, ma la sto guardando adesso. Questa è a tamburo. Bella, piccolina. A 6 colpi, Ma io non voglio nulla, ma questa è la pistola. Questa è la pistola, che è pittanza bella, bella figlia, in acciaio inossidabile, bella, ne sapete se parla italiano. La mostra è, la mostra delle armi, bella, Oh, lui, lo sai come sono legate al bancone, con capezzo in acciaio. Che cosa? La pistola, le pistole, però c'è una faccetta, è plastica, il capezzo d'acciaio è legato a, alla faccetta. Cazzo così tonti, se uno in Italia taglia la faccetta e un lavoro che se si vuole la pistola in bruciata. Bella, bellina. È quella precisa, ma una 38 adesso esce a vedere cos'è, te la mando, dov'è Luca, io mi si dai, guarda se ti è arrivata, bello bene, in via. Sì, è tempo di caricare, aspetta. Ti è arrivata, due ti hanno mandato. Aspetta che sto guardando qua. Sono la replica, Beretta in gomma. Poi revolver, Bruni, Assalve, Magnum, Inox e B. Aspetta, e quelle sono le repliche. Ma sono a CO2, leggi. Revolver, Bruni, Assalve, Magnum, Inox, calibro 38, top feeding. No, qui ci sono Assalve. Ma questa che ti ho mandato non è Assalve. Ma ti è arrivata. Poi sono le cartucce. Smart Trello, hard scatola. No, quell'altra che ha detto, non serve quella seconda che ha detto, la marca. Ma revolver? No, l'altro, il nome che mi ha detto, adesso non me lo ricordo, l'hai detto tu. Magnum. La Magnum, quelle, non servono a niente, mi pare che usca sulle 70-80 euro. Però sono a salve quelle, non sono, ci sono a CO2, ci sono. Questa che ci ha mandato è bellissima, ma non è assalto, questa è vita. Questa è una bella pistola. E ce ne sono tante marche, una più bella dell'altra. Ma non ne vendono pistole però su internet? Sì che te la vendo, però te la fanno arrivare da un armiere di fiducia qua a Sassari. E tu poi vai dall'armiere qua a Sassari e la retiri, non so, quello che c'è in piazza Castello, piazza Età, piazza Età. Sto facendo il moccale, c'ero grattacielo, come si dice, Pasquale, quello del Corso, quello di Via Grazia Deledda, quello di Via Mosca, ce ne sono armerie a Sassari. E vabbè, ma devi aver portato d'armi, se no te ne danno. E beh, logicamente tu la compri, la ordini, loro te la spediscono da quello che gli dici tu, dall'armiere, poi tu, loro dicono quando puoi andare a ritirarla, vai in armeria qui e te la ritiri, vai con i documenti e col passa e il porto d'armi, vai, porti la carta d'identità, codice fiscale e niente, gli dai i documenti, leggi, nome e cognome e ti date la cosa, no? Perché tu devi pagare in anticipo, noi ti paghi quando arrivino, prima paghi e dopo ti la mandano. Ehi, vabbè. Ma che razzo? Beh, adesso spendo tutto, va. Ce la sentiamo. Ciao Luca, buona cena, buon tutto. Sempre piovendo sta. E di quanto lavorizzo, non lo so. E mi sa di sì. Va bene, eh? Ciao, chi è l'ascolto? Domani a Pozzi ne è andata la 27. Ciao, ciao, a domani, da. Ciao, ciao, ciao Giovanni, ciao, grazie. Sotto la Paoletta, ciao. Hey, you, ciao. Grazie.